Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Ringraziando voi tutti per la cortese attenzione, ringrazio anche Cristiano Valli per la regia. L'appuntamento rimane confermato per domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata.